per il motivo che sto parlando e anche per un motivo che aggiungo io. La presenza del Movimento 5 Stelle in Italia, quello che ha fatto e quello che sta facendo. Il Movimento 5 Stelle, poi spero un attimino, adesso vedo il mio. Il Movimento 5 Stelle che cosa ha fatto? Ha fatto un, come che vogliamo dire, c'è stato anche un momento in cui qualcuno ha accostato il Movimento 5 Stelle a Podemos, no? Qualche mese fa, incredibilmente, qualcuno che dal 5 Stelle evidentemente voleva avere una fasciata di serietà e di credibilità che stava perdendo attraverso tutta una serie di situazioni che gli si sono verificate intorno, all'interno, eccetera. Non c'è riuscito, fortunatamente sì, almeno sembrerebbe che non c'è riuscito perché Podemos l'ha tenuto in propria distanza, tutto subito noi con 5 Stelle non c'è problema. E però il problema è duplice. Il Movimento 5 Stelle, a mio avviso, e vi parla uno che ha partecipato dalla Carta di Firenze, cioè dal inizio in poi, diventando poi dissidente nascosto, poi dissidente evidente e poi proprio sono disiscritto al Movimento 5 Stelle nel 2013, subito prima delle politiche, immediatamente dopo che nel mio comune il 5 Stelle aveva preso il 35%. Io ho fondato 3 meetup, quindi capite bene che le mie possibilità erano, però mi sono disiscritto e poi. Per un duplice motivo il Movimento 5 Stelle è deleterio rispetto a un discorso che noi potremmo andare a fare. Il primo motivo è perché il Movimento 5 Stelle, a mio avviso, è funzionale al sistema. Nel senso che se Renzi può fare quello che fa è perché il voto di 9 milioni di italiani che è andato al Movimento 5 Stelle è stato buttato nel cesso con un'opposizione inesistente. Un'opposizione inesistente. E se tu con 9 milioni di voti non riesci a condizionare la politica in un paese, significa che sei funzionale al sistema di fatto, volente o nolente. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è quello che nel tempo, con la sua demagogia, non parlo di populismo, ma di demagogia e di annunci falsi, il Movimento 5 Stelle ha catturato l'attenzione, ha catturato attivisti, ha catturato forze, energie sprecate di gente che non ha più voglia, energie positive che avrebbe potuto in questo momento o anche poco prima assorbire, prendere una Podemos italiana, diciamo, tra virgolette. Cioè una Podemos che differentemente dal Movimento 5 Stelle è strutturata, ha una struttura, è diventata comunque un partito perché si è resa conto che per camminare, per andare avanti, sono necessarie regole, sono necessari scritti nero su bianco per poter far sì che quello che si dice a voce, cioè faccio due esempi, uno vale uno, poi nei fatti non accade, perché? Perché non c'è niente di scritto, è stato detto a voce, ok? E non so, la base detta la politica che dovranno portare diretto in Parlamento. Nulla di più falso, non è accaduto perché questo non è scritto da nessuna parte. Nessun attivista del Movimento 5 Stelle, e chiudo con il Movimento 5 Stelle, nessun attivista del Movimento 5 Stelle ha la possibilità di recriminare su questo legalmente nei fatti perché non è scritto da nessuna parte. Se ci fosse stato uno statuto che prevedeva questo, un attivista del Movimento 5 Stelle che è stato espulso, come può essere un parlamentare attuale, un senatore, un Tavolazzi che è stato il primo espulso, un Fabio Sazzi, avrebbe potuto rivalersi, far valere le sue ragioni e portare avanti il discorso. Invece hanno dovuto abbassare la testa di fronte al leader. E qui nasce il discorso che l'uomo solo al comando non ci piace. cioè noi vorremmo fare una cosa, se ho capito bene, strutturata, organizzata, ovviamente che ha dei rappresentanti, perché altrimenti non si è andato, possono parlare tutti sempre, ma che rispetti quello che è il lavoro dietro degli attivisti, eccetera, eccetera. Quindi io parto da questo presupposto. Da questo presupposto noi siamo partiti, e parlo in questo caso di progetto X, perché io qui rappresento progetto X in questo momento. Noi siamo partiti da fine, cioè almeno io e altri, premetto che in questi 3 anni c'è chi è salito e c'è chi è sceso, ovviamente, come in tutti i percorsi. Noi siamo partiti da fine 2012, proprio dal, diciamo così, dal Movimento 5 Stelle, anche se non siamo ex del Movimento 5 Stelle, ma dal Movimento 5 Stelle, attraverso, proprio un esempio stupido, cioè è nato un gruppo Facebook nel segreto dei dissidenti del 5 Stelle, dissidenti aperti e dissidenti che oggi, ancora oggi, sono consiglieri comunali e parlamentari che facevano parte di dissidenti segreti che volevano fare le scarpe all'interno. Da lì poi dopo siamo usciti fuori e si sono avvicinati tutti a tutta un'altra situazione, tutte altre persone che provenivano da altre situazioni, fino ad arrivare a fare un'assemblea di tutti i movimenti di democrazia partecipata e liquida l'8 giugno del 2013, praticamente che cosa è successo? Attraverso un movimento che avevamo fondato, tra l'altro a mio avviso è stato un movimento all'interno del quale c'è stata veramente, diciamo così, l'esempio pratico della democrazia del basso, dell'uno vale uno, della democrazia partecipata e delle decisioni prese dall'assemblea, che era la democrazia del movimento, fino a che poi c'è stata una problematica interna. Da lì abbiamo fatto la prima assemblea del 8 giugno 2013 e arrivo subito ai giorni d'oggi, e dove hanno partecipato non solamente attivisti, ex attivisti, oggi parlamentari anche del 5 Stelle, posso citare, cioè c'era Indroia, c'era l'oggi senatore Campanella, c'era Rete dei Cittadini, c'era Azione Civile, ho detto, Lista Liberi Cittadini e Verde Dopo, c'era tutta un'altra serie di movimenti eccetera che dal nord al sud, dalla Calabria. Da quello lì abbiamo fatto un verbale per continuare la discussione, abbiamo fatto altri 3 o 4 incontri, un incontro il 14 settembre a Bologna, 2 incontri a Roma a dicembre, incontri a Milano successivi. Negli incontri a Milano sono intervenuti senatori e parlamentari attuali sia del 5 Stelle, ex 5 Stelle e non 5 Stelle. In pratica, che voglio dire? Che da che cosa è venuto fuori da tutto questo discorso? Il succo è questo. Da tutto questo percorso è venuto fuori che, e questo si era già notato nel primo incontro, che nessun gruppo, movimento, eccetera, è disposto a perdere la propria identità, a sciogliere la propria associazione per entrare in un qualsiasi progetto che possa essere anche il più bello possibile. Nessuno, a parole, ma poi nei fatti non lo fa nessuno. Anzi, la maggior parte tende a voler far sì che gli altri intervengano nel loro ambiente, cioè chi ha un per esempio, posso fare un esempio stupido, noi quando abbiamo fatto negli ultimi tempi abbiamo fatto parecchi milioni di assemblee con prima le persone che vengono dall'altra Europa, insomma tutta una storia all'interno eccetera, con il CNAC che è uscito fuori adesso che è per la Costituzione, no? Il gruppo che viene dalla Lista Civica Italiana di Brambilla, qui parliamo di decine di movimenti con centinaia di gente, che credo che poi sia l'aggregazione movimenti, comitati, eccetera, che alla fine è riuscita a mettere in piedi Podemos, no? Purtroppo in Italia la situazione è un po' diversa, per questo credo che bisogna fare una strada differente per arrivare allo stesso risultato. Che cosa accade? Che si decide di io, se tu fai per esempio la proposta di formare un forum neutro, cioè noi qui siamo in un'assemblea dove sono stati convocati tutti coloro i quali hanno voluto intervenire, no? Di qualunque gruppo, no? Se tu io qui chiedessi domani facciamo un forum neutro chiamato proprio neutro, che non è il nome di nessuno, e noi di tutti i movimenti andiamo a discutere là, io vi assicuro, perché non perché lo penso, ma perché sono 3 anni che accade regolarmente, che qualunque movimento dice ce l'ho io il forum, ce l'ho io lì, venite lì, facciamo lì. Tutti, sempre. Noi progetto X abbiamo fatto tesoro di questo, abbiamo lavorato in questi 3 anni alla stesura di documenti tipo lo statuto e vengo poi appunto, statuto e regolamenti vari, tra cui regolamenti dei circoli, regolamenti elettorali, prendendo spunto da Partito Pirata, da Podemos, andando proprio a studiare a fondo certe situazioni, abbiamo tirato fuori questi documenti, li abbiamo messi a disposizione di una discussione che dovrebbe arrivare, nelle nostre intenzioni, all'assemblea costituente, cioè la discussione, il confronto con movimenti, nelle varie situazioni, nelle varie modalità, fino ad arrivare all'assemblea costituente, che poi è stato il fine di Podemos. Dopo l'assemblea costituente si è costituita, non certo prima, no? Che cosa c'è? Però noi facciamo ancora di più, nel senso che a noi non interessa, a noi non ce ne importa niente che i gruppi, i movimenti vengano a discutere sui documenti da noi, non ce ne importa niente, cioè noi siamo qui, ecco qua, Marco lo sa, li abbiamo messi a disposizione, li stiamo discutendo insieme a loro, unendo anche i documenti di Podemos, eccetera, i regolamenti di Podemos, stiamo cercando di trovare una quadra insieme, ok? Ma andiamo sul sito di Amici di Podemos a discuterlo, o sul sito, ovunque, non ci interessa. Progetto X, pensate che si chiama Progetto X perché non ha un nome, perché a noi interessa, non interessa fare un gruppo movimento, a noi interessa esclusivamente che si capisca un discorso base, chiaro. Qualunque situazione, qualunque cosa noi andremo a creare, se ci riusciremo, se all'interno non è regolamentata in maniera tale che i principi possano venire effettivamente messi in opera, e infatti principio uno vale uno, non essendoci un regolamento che lo prevede, ma solo il dire, il proclama, significa che tu non riuscirai a metterlo in pratica. Ok? Adesso, poi c'è il discorso ovviamente della verifica di quello che fanno i rappresentanti ogni 6 mesi, degli ordinamenti, dei comitati interni che possono andare a verificare il lavoro. Che i lavori che effettivamente vengono fatti, cioè, è tutta una cosa abbastanza complessa, che è nero su bianco, che non abbiamo messo a disposizione di legge. Detto questo, dico questo perché quando io dico a noi interessano per prima cosa, a noi interessa per prima cosa quello che noi riusciremo a mettere nello statuto e le regole che ci daremo, perché questo che ci darà la possibilità di portare avanti la visione politica, perché altrimenti tu puoi avere la visione politica che vuoi, ma muore dopo 15 giorni, dopo 20 giorni, perché vai a scontrare all'interno, e credo che anche dentro a Podemos ci siano state discussioni, adesso io non so, ti vai a scontrare all'interno con una situazione che dove la gente va a verificare. Non puoi sempre discutere di questione politica, perché una volta che noi siamo d'accordo su una cosa, siamo d'accordo, dobbiamo trovare come portarla nelle istituzioni, dobbiamo capire, dobbiamo trovare la modalità, la strada per portarla nelle istituzioni, per cambiare questa società. Non possiamo rimanere sempre nel dibattito, nella nostra visione politica, e portarla nelle istituzioni significa purtroppo oggi sottostare al fatto che bisogna fare una certa strada, bisogna avere dei rappresentanti che sono senatori, che sono parlamentari, che lì possano fare e agire. E purtroppo è così. Non possiamo cambiarla, cioè se tu vuoi cambiare una società, prima devi sottostare alle regole che ci sono e da dentro le istituzioni cambiarle. Non puoi fare in altro modo, non c'è altra strada. Quindi, concludo dicendo, noi infatti, come progetto X oggi, io sono qui, ma noi ci confrontiamo sempre con Marco, con Barbara, eccetera, vediamo alcune cose differenti, alcune cose uguali, però è anche positivo, perché comunque sia, anche il fatto di fare degli scontri duri su alcune situazioni è importante. Siamo qui, ma noi siamo anche, per esempio, attraverso Giampaolo Sabici oggi a Napoli, dove c'è il congresso di Cossiga. Perché? Perché qui si tratta di unire, non di partire da una cosa e di andare non di partire dal centro e di andare a unire fuori. Qui si tratta di andare fuori e di portare tutti al centro, cioè di trovare la quadra tutti insieme. Cioè, se io parto da qui, da 20 persone, e credo di convincere quello fuori a venire con me, possiamo andare a pranzo, a cena, tutte le volte che vogliamo, ma alla fine non ci riusciremo. Quindi qui si tratta di andare fuori, senza essere, perché, vedete, per esempio, io vi dico come la pensiamo nel progetto X, al di fuori di certe situazioni improponibili, assurde, no? Per esempio, con Barbara non ci troviamo d'accordo sul discorso Civati. Lei dice, è stata una forza di governo, io non voglio più vedere. Se noi facciamo questo discorso, lo confermo. Se noi facciamo, intanto, vabbè, non voglio parlare del caso Civati, io faccio un fatto successivo. Io vi dico sempre che non sono, puoi essere generoso con la verde la voce, perché quelli si fanno fuori da soli. Perché questo discorso non fa per loro. Va bene. Che cosa accade? Bravo. Va bene. Te la posso concedere. Che cosa accade? Che una volta che tu c'hai regole democratiche chiare, scritte nero su bianco, eccetera, può entrare pure Valanzasca. Scusa, io ti faccio solo l'esempio della lista di Barcellona in comune di Aora Madrid, che è un po' studiato. Loro hanno fatto un processo costituente in cui hanno messo il codice etico come punto essenziale, le primarie e una serie di punti programmatici. Hanno detto: chi ci sta entra, chi non ci sta non entra, punto. Non c'è solo discussione. Infatti è molto semplice. Non senti manco la replica. Purtroppo devo andare, l'abbiamo fatto tardi. Infatti questo è il discorso che volevo dire che noi dobbiamo pensare anche a un fatto importante. Come dicevano prima, Podemos ha avuto anche dei mezzi, ha avuto dei finanziamenti da Sud America, eccetera. Noi abbiamo anche dal proprio lavoro fatto da loro nel Sud America gestito a beneficio e a favore, quindi non c'è parte relativa da quel punto di vista, tranne generosità mascherata per fini fiscali, questo è vero. Allora, voglio dire, ci dobbiamo anche rendere conto, per cui magari può essere che in una fase una certa situazione possa far comodo a portare avanti un certo discorso, cioè, perché noi dobbiamo trovare la strada per arrivare in istituzione, non ce ne dimentichiamo. Ok, quindi ecco, per il momento solo questo, non voglio approfondire altro. Voglio dire, a noi interessa come progetto X che ci siano regole e modalità tali per cui, cioè, aspetta, questo l'ho detto, scusami, mi viene un minuto perché volevo anticipare il discorso che aveva Marco prima, con il quale sono molto d'accordo. Gli strumenti, ricordiamoci una cosa, che quello che ammazza qualunque processo è la partecipazione sì o partecipazione no. In genere si parte in 500 dopo una settimana si è 200, un mese dopo si è 20. Perché io non c'ho tempo, io lavoro, io qua, io là. Quindi la partecipazione è quello che uccide qualunque idea più bella. Quindi è chiaro che il buongiorno si vede dal mattino, se la partecipazione aumenta, bene, ma se diminuisce c'è qualcosa che non va bene. Deve essere una partecipazione commisurata. Oh, oggi come oggi, io ho una certa esperienza con i feedback, eccetera. Io credo di essere, non so più quanti, io credo di essere uno dei pochissimi in Italia a essere iscritto su una piattaforma Agora Voting. Hola. Agora. Penso di essere, no, quanti sarei in Italia? 5, 6. Io, Progetto X la sta sperimentando, come Lumi, siamo con Basa, non so, siamo... ovviamente poi troveremo la quadra nella piattaforma, per cui se vogliamo fare una demos italiana, mettiamoci in testa che dire io penso che gli incontri fisici siano importanti, per cui non uso il web, significa abbassare la partecipazione, significa concorrere al fallimento del progetto. Cioè ti devi sforzare a imparare e a fare, altrimenti non ci riesci. Io mi scuso, tra 10 minuti devo andare via. Guarda, c'è una replica solo di ecco, France. Ascolto 10 minuti di volentieri. No, perché proprio che per stamattina. Okay. Poi se prendiamo le fila. Siccome io ho ascoltato, non ho bisogno di poco. Mi sentite, vero, giusto? Ma anche forse no, perché ci sta lì. Ok, va bene, avanti. Allora, Rosario, giusto? Rossano. Bene. Due o tre cose anche per introdurre l'intervento che vi leggerò, e ve lo leggerò per una ragione essenziale, perché c'è un ragionamento che porta a delle conclusioni nostre, e quindi lo offriamo davanti a tutti. Fermati. Prego. Lui è Franz Altomare. Ah, sono Franz Altomare. Perdonatemi, ma siccome non ci sta leader e persone, siamo X, capito, qualsiasi... No, io devo presentarti. Ti ringrazio, Barbara. Allora, è stato detto questa cosa qui, no? Che molti movimenti sono autoreferenziali, è vero. Difendono la loro soggettività, difendono il loro orto, e noi siamo d'accordo su questa critica, no? E tant'è che da parte nostra noi non ci comportiamo come i testimoni di Geova, con tutto il rispetto ovviamente per ogni credo, tipo vieni con noi, no, anzi, cioè non venire, stiamo cercando di arrivare a qualcosa di simile a quello che hai detto, ma poi anche nel corso di quello che presenterò e dirò, magari tu non ci sarai, spiega perché c'è un limite in questo, no? Allora, arrivare a unire dei soggetti politici, dei movimenti, delle persone su nessuna base analitica rispetto, no, a una spiegazione della crisi economica e politica che c'è, lo diremo, perché c'è una crisi di democrazia, lo abbiamo visto, si viene eletti, si va al governo e non si governa, è una grande sciocchezza, però noi non crediamo che sia possibile unirsi sulla base della volontà, ci uniamo per fare la cosa giusta, bene, la cosa giusta ci arriviamo a capire qual è tutti la cosa giusta, no? La piena occupazione, i servizi sociali disponibili per tutti in maniera gratuita, ma chi vuoi che ci dica, almeno da sinistra o comunque nei movimenti antiliberisti, quale non è la cosa giusta, ci si arriva a... parli del metodo, vabbè, anche lì dobbiamo capire come possa essere un metodo partecipato, condiviso, affinché realmente le persone possano essere attivi in quella che poi sarà la linea politica, no? Cioè io partecipo a un gruppo, a un movimento, a una piattaforma, ho diritto di parola, posso presentare una mozione, il coordinatore la fa discutere e poi si vota. Su questo siamo d'accordo, no? Ci si chiede come mai però, con tutte queste convergenze, siamo il 70% dell'opposizione al neoliberismo, ma un 10% governa l'Europa e l'Italia. Beh, cerchiamo di capire questo. Ora, verrà dal discorso che vi devo leggere, purtroppo mi piace più parlare che leggere, ma ve lo devo leggere perché c'è un discorso, ma anche e soprattutto per valorizzare il lavoro che sta facendo Barbara Serafini, che prende il programma di Podemos in Spagna, no? Come... un punto di partenza, un riferimento per cominciare a sviluppare una politica democratica anche in Italia, con le differenze ovvie che ci sono tra due paesi che hanno delle differenze, con diversi retaggi politici più che culturali, e non erano 5 Stelle. Bene, ci sarà una critica costruttiva, ma davvero, sull'aspetto non tanto del metodo, non tanto del programma, ma dell'azione politica. Cioè, noi non crediamo possibile che, noi non crediamo che esistano i cittadini. Cioè, ci credeva Robespierre, poverino, l'hanno ghigliottinato. Va bene, d'accordo, ci piace Robespierre. La cittadinanza noi ci crediamo, ma è un elemento giuridico. Noi non crediamo che i cittadini tutti si uniscono per fare la cosa giusta, no. Bisogna avere una visione di quello che sta succedendo, una visione politica, capire dove è il conflitto e dividersi per unirsi, cioè condividere un'idea critica di qual è la crisi, da dove viene, e capire che rapporto avremo rispetto al sistema di potere. Per questo non credo che si possa fare un tavolo aperto a tutti, ma non ci credo per niente, è destinato a fallire, ma lo abbiamo visto nel Movimento 5 Stelle cos'è l'interclassismo. Certo, non affronti mai il problema fino in fondo, un problema, il vulnus, no? Che è alla base della crisi della democrazia e dell'economia, perché ha interesse di avere il massimo consenso possibile dell'elettorato. Noi non crediamo questo, noi crediamo che è importante convergere innanzitutto su una ratio della crisi e del conflitto che c'è, dopodiché i programmi, è più facile convergere sui programmi, e poi si stabilisce il metodo per evitare storie che funzionavano nel Novecento, no? Dove c'era il centralismo democratico, una classe dirigente che si considerava avanguardia perché di fatto lo era. Quindi dopo andrò avanti, io non credo che i movimenti, ti lascio replicare ovviamente, non credo che i movimenti si possano fondare, abbiamo delle buone intenzioni, stiamo andando verso degli obiettivi giusti, sediamoci, uniamoci, no, quello è l'interclassismo, è la cosa peggiore, non va a affrontare il sistema di potere. Io credo invece che, fatta la critica al sistema, trovato qual è il punto su cui convergere, vengono automaticamente sia i programmi sia il metodo, e noi crediamo nel metodo partecipativo e condiviso, e lo mettiamo in pratica, no? Il coordinamento ti fa la sua relazione, riceve quella, si discute e si vota. Perfetto, chiunque, uno vale uno, che noi non ci piace dirlo, perché è facile dirlo che uno vale uno, ma c'è sempre qualcuno che è più uno degli altri e non ci piace. Crediamo nell'intelligenza collettiva. E ho finito, ti lascio. No, no, guarda, ho finito. Avevo bisogno di dirti. No, ma io ho capito quello che dici, invece io parto proprio dall'altra parte. Ho capito, cioè. Io dico che persone che hanno una visione politica simile esistono. Ci siamo. Okay. Ci siamo. Noi dobbiamo capire come vogliamo interagire tra noi. Quali regole interne ci vogliamo, cioè, dare, capisci? Perché qualunque movimento politico o qualunque gruppo politico, prima di metterci la faccia e di dire io so come Pippo, può sapere, ma no, può sapere chi c'è qui. No, perché io come ci confrontiamo? Come ci confrontiamo? Noi per noi crediamo, siccome ci abbiamo avuto, vedi, questo discorso qua è sempre stata, ce l'hai fatta tu prima la lezione. Tutti. No, sai perché? Ho partecipato, certo. Perché a quei tavoli di cui sta parlando, quei tavoli ci siamo già. Allora, le nostre conclusioni sono, dopo 3 anni di lavoro, che bisogna assolutamente, prima di tutto, trovare un metodo condiviso di lavoro, e cioè condividere la legge interna che ci deve regolare. La legge interna che ci deve regolare è lo statuto e i regolamenti interni. Okay. Da lì io posso, perché non può essere che c'è una visione politica sempre uguale in qualunque movimento, gruppo politico, cioè, altrimenti diventa peccato, ma se sono tutti uguali è Russia. Allora siamo, peccato, dico, peccato, dico, peccato, dico, peccato, aspetta, aspetta, fammi vedere. Allora io dico, anche perché i problemi non domani, la visione politica che noi abbiamo oggi, tra 6 mesi potrebbe avvenire un cambiamento politico, per cui bisogna prendere decisioni su avvenimenti che oggi non esistono. Non so, e domani potremmo avere delle posizioni diverse, e queste posizioni diverse tra noi devono essere già regolamentate da statuto e regolamenti interni che ci permettano di poterci confrontare alla pari, capisci? Perché se tra 10 anni, 5 anni, una situazione politica che oggi non esiste viene fuori, e io e te che ieri avevamo la stessa visione politica, su questa cosa che esce fuori da 5 anni, la vediamo diversamente, e non c'è tra noi regole e statuto che ci dà la possibilità di veramente rivalere uno e uno, significa che tu, se in quel momento tu hai una posizione di leadership rispetto a me, tu a me mi butti fuori senza che io possa. Questo è il metodo, siamo d'accordo. Stessa cosa è successo con Civati, con Renzi e con tutti quelli che stanno. Ma sì, purtroppo siamo lontani da queste considerazioni. Anche se i particolari sono diversi. Quindi. Io Rossano, in Francia un attimo, signora, prego. La parola a Fernando, voleva parlare. Capisco la ragione, sì, capisco la farmacicità, capisco evidentemente che i punti di vista hanno un certo approccio redditizio e strategico giustificabile. Però leggo Juan Carlos Monedero sulla lavagna e mi ricordo di una cosa sulla quale sono stato sempre d'accordo. Uno degli errori fondamentali del pensiero di sinistra nello scorso secolo, per di più il fallimento principale del chiamato socialismo reale, è stata proprio la mancanza di fiducia nel proprio popolo. Quindi le regole democratiche vanno rispettate assolutamente e qualsiasi tipo di iniziativa deve essere sottomessa, anche se non è funzionale, ad una maggioranza ipotetica di interessati. Quindi io sono del parere che le regole democratiche assolutamente rispettate. Assolutamente, no, faceva. Rossano fa sempre più un discorso molto pragmatico, perché ha le sue. No, vabbè, però. Invece guarda. Ma non state dicendo due cose opposte, eh? Stiamo partendo da prima. Partiamo da prima. Esatto, cioè state. No, ma che da rispettare. Mi sono forse ci provo. Qual è il tuo nome? Scusa, il tuo nome? Se le cose sono le mie parole. Perché se. Ma io ne vogliamo arrivare a questo. Noi adesso esponiamo la nostra, vi sorbite il papello che vi devo leggere, perché due palle così lo sentite, però è un discorso che lo devo leggere, non posso farne a meno, non possiamo andare a brago la retorica, anche su questo io sono contrario alle assemblee fisiche dal vivo, per quale ragione? Perché c'è sempre qualcuno che riesce a, pur non volendolo, a imporsi, no? Quindi noi siamo per un lavoro in rete che viene poi concluso, finalizzato, portato a compimento nel lavoro reale. Hai parlato di metodo, ha parlato di democrazia, siamo d'accordo. Sui programmi siamo più che d'accordo. Adesso poi magari leggerai, perché ci dovremo dare in contatto, quello che è questa relazione. Parliamo della visione politica e capire quale elemento dobbiamo condividere per poter lavorare insieme. Ci sarà una critica a Podemos, è una critica benevola, non è una critica a tutti. È critica in senso, ascoltami Fernando, critica in senso di approccio critico, analitico, non pregiudiziale, tant'è che noi crediamo e abbiamo letto e riletto il programma che io l'ho dovuto fare particolarmente. Ciao Rossano, ti aggiorneremo. L'ho dovuto leggere, ci piace, una critica. Ora, che venga così come mi viene riportata dal nostro movimento, così io spero che venga ricevuta, cioè con un approccio positivo, non con un approccio pregiudiziale. E dico delle cose, adesso poi il papello, preparatevi, fatevi portare da bere, dura 20 minuti, però è un discorso che mi aspetto soprattutto da te, oltre che da Barbara, sappiamo che è una situazione dialettica, perché Podemos Italia ha già comunque cercato di inquadrare questa trasposizione dal programma di Greta al suo, e c'è attenzione da parte nostra e diremo delle cose. E allora, adesso il papello, il microfono, mi sentite bene, vero, senza microfono, Che proprio sta cosa da. Nonostante il vaso d'oro. Fosse un cono al pistacchio, lo capivo di intendere. Ecco, adesso c'è un ragionamento, mi aspetto dopo, rispetto al tempo, eccetera, delle risposte da Podemos. Barbara, che non abbiamo una relazione, delle risposte, perché noi vogliamo unirci, ma non sulla base, come dice l'amico Rossano che è andato via. Cioè non ci si può dividere senza sapere rispetto al sistema di potere. Tu cosa pensi? L'euro non è un problema? L'euro è un problema, ma ci sarà l'Europa dei popoli, eccetera. Purtroppo abbiamo un difetto noi, di una certa sinistra, che da un lato abbiamo visto che la sinistra del Novecento ha esaurito la sua spinta, dall'altro però l'analisi della società che è divisa da conflitti forti l'abbiamo mantenuta. Per questo non pensiamo che possiamo andare d'accordo con Tizio, con Caio e con Sempronio rispetto al potere. Che atteggiamento hai tu? Perché è facile dire facciamo questo quando poi lo fa. E arriviamo al papello. Vale. Allora, in questo periodo assistiamo alla rinascita di un fermento politico che si diffonde a diversi livelli della società civile e vede la nascita di numerosi movimenti politici e nuovi gruppi auto-organizzati. Questo fermento risponde a un bisogno di partecipazione politica particolarmente sentito per due ragioni specifiche. La prima ragione è congiunturale, non una coincidenza, ovvero la grave crisi economica che attanaglia l'Italia e altri paesi dell'Europa meridionale come la Spagna, il Portogallo e la Grecia. La Grecia che finora ha pagato e continua a pagare il prezzo più alto di quelle politiche criminali, perché tali devono essere definite, e che sono alla base della governance europea. Un inciso, la governance, cioè ha un significato particolare, cioè il sistema politico e il sistema economico e finanziario, questo significa governance, perché poi ci piace dire le cose, ma nessuno le spiega, questo l'ha detto. In realtà la crisi nasce come crisi finanziaria, no? Crisi dei subprime, eccetera, che poi arriva, che progressivamente diventa crisi economica, ovvero crisi della domanda e dei redditi, e infine degenera in una crisi sociale sofferta in primo luogo dalle classi lavoratrici sfruttate, disoccupate e precarie, e a seguire dal mondo del lavoro autonomo e della piccola e media impresa. Perché questo dobbiamo dire, perché il reddito da dove arriva? Arriva. Se arriva dal lavoro autonomo, noi non siamo vetero comunisti assolutamente, è il reddito, e non possiamo dimenticare questo. Quindi il fordismo è superato, ma l'essere umano deve tirare dal reddito i mezzi per la propria sussistenza. La seconda ragione che vede questo fermento, eccetera, che spiega il bisogno diffuso di partecipazione politica, è lo svuotamento delle istituzioni democratiche e la cessione di sovranità degli stati ad una governance sovranazionale costituita dalla Commissione Europea, dalle banche private con in testa la Banca Centrale Europea e dal Fondo Monetario Internazionale, no? E la cessione di sovranità. In sostanza succede che il voto dei cittadini è diventato una farsa utile solo per una legittimazione formale di un potere che non rappresenta gli interessi della società nel suo insieme. Chiunque vinca le elezioni non governa, ma amministra secondo le direttive imposte dall'autorità europea. Questo lo abbiamo visto con drammatica evidenza in Grecia e lo vediamo naturalmente in Italia. Ma non stiamo qui a parlare in maniera diretta della crisi e delle sue cause. Rispettiamo il tema di questo incontro, no? Nuovi metodi di organizzazione e di democrazia partecipativa. Ci arrivo alla fine, con i soliti giri che mi piace fare. Si pone qui il problema del soggetto politico, no? O della soggettività politica. Chi fa cosa? Bene, si parlerà del metodo organizzativo della democrazia interna o partecipativa di un movimento che ha come obiettivo di rappresentare un'alternativa reale alle politiche dell'austerity e al difetto di democrazia connaturato ormai al quadro di potere nazionale ed europeo, e che crea un forte divario tra obiettivi politici ed economici e la ragionevole possibilità di metterli in pratica e realizzarli per qualsiasi soggetto politico. Questo bisogna dirlo, puoi avere tutte le buone intenzioni, vediamo se te lo lasciano fare. È necessario fare però un discorso coerente e comprensibile su alcune contraddizioni che risaltano in maniera particolarmente eclatante. Come mai, no? Di fronte a un dissenso popolare molto ampio contro le politiche dell'austerity, non corrisponde a livello democratico una forza politica organizzata per contrastare le politiche neoliberiste e porsi come alternativa valida a una diversa concezione della politica e dell'economia che vada in direzione dei bisogni delle grandi masse? Perché non succede, anche se siamo in tanti e siamo la maggioranza? E soprattutto, perché anche quando non c'è questa frammentazione caotica dei partiti, penso a Syriza, no? E si riesce a compattare una piattaforma politica apparentemente unitaria e alternativa, come è avvenuto in Grecia, anche in quel caso il risultato politico si traduce in un fallimento e in una resa sostanziale della democrazia a un altro ordine politico e finanziario, che di democratico non ha davvero niente. Scusate. È evidente allora che il problema della soggettività politica, chi fa cosa, non può e non deve essere ridotto al solo metodo organizzativo del movimento. È una parte importante, ma non è solo quello. Non possiamo illuderci che uno stile apparentemente nuovo della comunicazione, di spin doctor, di esperti di marketing, li odio, lo posso dire apertamente, ma vecchio per quanto riguarda l'accettazione di fondo del sistema di potere, possa alla lunga mantenere un consenso facilmente ottenuto con arringhe di sapore populistico, no? Ma senza nessuna sostanza di proposte serie che affrontino i problemi nella consapevolezza di poterli risolvere. Io ti presento un problema, c'ho l'applauso. Lo sai che stai morendo di fame? Ah, cioè, che significa? Non devi essere tu a dirmelo, lo so benissimo che è un problema. Il metodo di un nuovo movimento, le regole interne di partecipazione o lo statuto, no? Come viene di solito definito, è sicuramente un cardine importante per la riuscita e il successo della politica promossa dal movimento stesso, ma è solo uno dei tre cardini su cui si regge la ragionevole aspettativa di portare a compimento un progetto politico. Gli altri due cardini sono la visione politica del quadro di potere, cioè la comprensione del meccanismo di sistema e delle sue contraddizioni, e l'altro è il programma, ovvero gli obiettivi che si intende raggiungere. Quindi abbiamo tre cardini, tre punti fermi: visione politica, programma e metodo del movimento. Questi tre aspetti devono essere coerenti tra loro e non in contraddizione, perché fanno parte di un progetto che non può contraddire se stesso. Proprio nel momento in cui si ottiene il consenso si diventa forza di governo, non deve emergere a quel punto, quando si è giunti finalmente al governo, no? Parliamo dell'Italia, magari in Italia accadrà prima o poi, la contraddizione che dimostra quanto un certo progetto fosse ingenuo o velleitario o peggio, ipocrita, che lo sapevano che non funzionava. Non si può andare a raccontare a chi ha creduto nel progetto che andava bene finché si era all'opposizione, ma una volta diventati forza di governo si prende atto che all'interno di un certo sistema di regole che non si sono mai messe in discussione fino in fondo, quel progetto non è realizzato. Bene, è paradossale, no? Che alla fine vai a ritrattare quanto promesso in nome di un astratto dovere o di senso di responsabilità. Io sono un irresponsabile, se per me la responsabilità è accettare il dominio, sono un irresponsabile, pazienza, magari forse. Vabbè, è ossequio verso il sistema che non consente possibilità di riforme, non te le concede, te le devi conquistare le tue possibilità di riforme. Bene, visione politica del sistema e delle sue contraddizioni, programma e metodo organizzativo. Incominciamo dal programma, e qui ci piace, no? Però ci piacerebbe capire dove stiamo andando, noi che non vogliamo la stessa cosa, vediamo come si può fare. Il programma è più semplice concludere che in linea di massima quasi tutti i movimenti o partiti di opposizione al neoliberismo hanno molti obiettivi in comune, anche se spesso non sono dettagliati, e quindi è più facile anche ammettere che ci sono più convergenze che divergenze. Parliamo di noi del MOVES, ma non siamo, siamo un gruppo del movimento Essere Sinistra. Abbiamo un programma abbastanza dettagliato che riporta anche le procedure per soddisfare certi punti, non si limita a denunciarli. Vogliamo il reddito di cittadinanza o il salario sociale, ti dico anche come lo andiamo a fare, anche i citofoni dove dobbiamo andare a bussare. Questo è un progetto, funziona o non funziona, ma sappiamo dove stiamo andando. Poi l'orizzonte degli obiettivi, la storia deciderà se ci arriva, ma sappiamo dove stiamo andando, almeno prendiamo sapere. Prendiamo alcuni punti tra questi, dei programmi in generale, che possono trovare un'ampia convergenza, no? Con altri movimenti che come noi combattono, insomma, questo tipo di capitalismo che oggi noi definiamo neoliberista, ordoliberista, finanziario. Non apriamo adesso dotte discussioni su questo, non c'è, al popolo non interessano le dotte discussioni, al popolo interessano gli obiettivi certi. Se ci facciamo capire da un lavoratore, da un disoccupato, da uno studente al primo anno, stiamo sulla strada giusta. Se ce la dobbiamo raccontare tra teorici e dotti che io non li sopporto, non sono proprio interessato, davvero, davvero. Non ci siamo limitati a rivendicarlo noi il salario sociale, no? Come diritto, ma ci siamo preoccupati in che modo questo obiettivo della piena occupazione o dell'azzeramento della disoccupazione volontaria possa essere compatibile col sistema produttivo in generale e con quello finanziario in particolare. Noi diciamo dateci questo, no, noi cerchiamo di capire come possa funzionare qualcosa che non metta in crisi, perché il capitalismo è stronzo, però crea i mezzi della produzione, stiamo attenti, cioè non vogliamo distruggere tutto, noi vogliamo cambiare il segno alla gestione di quanto prodotto. È difficile, è una scommessa, lo sappiamo, non staremmo qui se ci piacevano le cose facili, staremmo da qualche altra parte, in altri ambienti. Ora noi rivendichiamo il diritto al lavoro, insomma l'occupazione come diritto universale, perché una persona, un essere umano che cerca il lavoro sul mercato e non lo trova, oppure lo perde e a una certa età non lo ritroverà con certezza, non può essere abbandonato a se stesso, alla miseria, alla morte civile ed esistenziale, sempre più spesso anche al suicidio, no? Questo potrebbe essere un argomento populista, però quando uno muore, muore, cioè ha deciso di basta, bah, la faccio finita. Succede, non lo rappresentano i media, succede sempre più spesso. La risposta della politica di potere, una risposta cinica, e dice che il problema è della persona, che doveva essere più competitiva e che comunque non ci si può sobbarcare di questo problema perché non ci sono risorse sufficienti, eccetera, eccetera. Questo è il discorso. Bene, in sostanza il sistema politico, che in teoria dovrebbe rappresentare la collettività nel suo insieme, dice arrangiatevi, sperate, verranno tempi migliori. Io lo accetto dal cristianesimo questo, ma voglio dire, è una scelta personale, non lo accetto dallo Stato che non c'è, poi vediamo perché, cioè è rimasto a garantire il militarismo e i mercati, pensa un po' il neoliberismo che cosa ha fatto. Ora, il sistema politico per noi rappresenta la classe dominante ed è evidente che certe scelte politiche sono di parte e manifestano quello che è un conflitto di classe. Noi del Movest riconosciamo che alla base di tutto c'è un conflitto di classe specifico, no? rivendichiamo di essere sinistra e rigettiamo le ipotesi interclassiste che nascondono tale conflitto camuffandolo con spiegazioni deboli che riconducono a soluzioni tipo tutto si risolve se la classe dirigente è saggia o onesta, mi devo affidare a persone, non è così che funziona. Questo approccio noi lo respingiamo. Questo approccio considera superata e non spendibile sul piano del marketing l'esistenza di una destra e di una sinistra, e in questo c'è un conformarsi al pensiero unico dominante che viene giustificato come necessario, naturale e immutabile. Il capitalismo non ha, sarò, io sono il signore Dio tuo, non avrai altri capitalismi al di fuori di me. Facciamo un confronto adesso, entriamo non nel merito anche delle cose che ci interessano, cerchiamo di capire dove e quando noi auspichiamo si possa raggiungere una convergenza con movimenti nuovi che noi stiamo criticando per alcune parti, ma in maniera spero costruttiva, non verità. E il programma di Podemos o di Amici di Podemos, che è stato tradotto togliendo via le parti che riguardavano in maniera specifica alcune situazioni normative spagnole, eccetera. Difendere la pace, no? Difendere la pace. Bello. Uscita dell'Italia dalla NATO, rifiuto di interventi militari per la risoluzione dei conflitti internazionali, smantellamento delle basi militari straniere in paesi terzi. Su questo punto chiaramente da parte nostra c'è convergenza. Facciamo solo un'osservazione adesso, ma così en passant, che l'uscita dalla NATO ha un impatto di rottura che è uguale o probabilmente superiore all'uscita dall'Eurozona, dalla moneta unica. Però noi lo sosteniamo e lottiamo insieme su questo, in maniera seria, non c'è dubbio. È uno dei cardini fondamentali dei programmi. L'uscita dalla NATO. Prego? Lo fece il secondo atto, ovviamente progettualità, il nostro caro amico defunto De Gosne, male che morto. Un altro punto su cui convergiamo è la garanzia. L'ho letto, è bello il programma, cioè è bello, ma è sociale il programma di Podemos, no? La garanzia del diritto a una casa dignitosa, è normale, è un bisogno fondamentale. E una moratoria del debito ipotecario sulla prima casa per le famiglie che sono in difficoltà. Non devi aggiungere niente, siamo d'accordo, basta. Sosteniamo insieme, non con ma io ho la visione di te. No, si fa insieme. Il diritto alla casa è uno dei diritti fondamentali dei bisogni della persona. Quindi c'è un programma sociale, ne prendiamo atto. Poi nascono però dei problemi, delle perplessità sul programma di Podemos, su alcuni punti centrali, come quello del piano di salvataggio dei cittadini, focalizzato sulla creazione di un posto di lavoro dignitoso nei paesi dell'Europa meridionale, programma di investimenti e politiche per la ripresa economica e creazione di posti di lavoro di qualità. È chiaro che convergiamo su questo, vediamo poi un limite, perché potrebbe non funzionare se non metti in discussione alcune cose. Stesso limite lo riscontriamo per un altro punto, però il diritto a un reddito di cittadinanza per tutti. Noi non lo chiamiamo reddito di cittadinanza perché, ma non è importante, questo magari è una disquisizione teorica, lo chiamiamo salario sociale, ma è la stessa cosa, il concetto è quello: tu stai senza lavoro, hai cercato sul mercato, e cosa devi fare? No? Non puoi essere abbandonato a se stesso. Lo Stato, la collettività, preferisco dire, garantisce che tu puoi soddisfare almeno dei bisogni di base e vivere in maniera dignitosa ai limiti della povertà, però non vai a degradare nel... E questo noi lo condividiamo, vediamo quali potrebbero essere dei punti di dissenso, di incompatibilità rispetto al sistema, questo lo cerchiamo. Secondo noi questi ultimi due punti sono irrealizzabili, lo so che sto per toccare un argomento che ci ha rotto le palle, quella dell'euro, ma ve lo devo dire. E questi punti sono irrealizzabili se si resta nell'eurozona, secondo noi, okay? Perché è facile rivendicare un diritto, ma è ancora più facile tacere sugli strumenti con cui si intende realizzarlo. Visto che in Italia, parliamo dell'Italia, ci sono 3 milioni e mezzo di disoccupati, e il reddito di cittadinanza che è un diritto di tutti. Prego, interlocuisci. C'è una grande differenza. In effetti questo è stato intrapreso dal programma economico di Navarro e quello che fa passo dopo, la realtà è diversa fra la Spagna e l'Italia. Okay. La Spagna adesso ha ancora un tipo di sistema impositivo che lascia un margine enorme per tassare i livelli di ingressi più elevati. Okay. Soltanto questo, soltanto regolare la Spagna, cosa che l'Italia non ha margine di lavoro, soltanto questo potrebbe permettere di realizzare. Quindi ci hanno già pensato al come. Questo andrebbe coperto con la politica fiscale. Perché in Spagna ha più margine, invece in Italia è più solida. Oh, io ti ringrazio di questa precisazione perché per fortuna mi viene dalla viva voce. Non sono convinto, nel senso che io sono come San Tommaso, non so se anche io no. Concordo che sarà difficile, senso che comunque per persino convincere la popolazione. Hai detto una cosa importante, il sistema impositivo e dei margini che sono diversi, e ci credo che qualche margine in più la Spagna lo possa avere, però a me interessa l'aspetto sistemico, siccome parliamo di miliardi di euro, non parliamo di... Sì, no. Il programma, i calcoli fatti. Allora, Ferrari, perché io ne prendo atto. Tu sostieni. Come è stato. Tu sostieni, perfetto, che comunque in Spagna è possibile recuperare queste risorse senza andare a toccare l'euro. Quindi non entriamo adesso nel problema di cosa determina la moneta unica. Non è questo un incontro di economia politica, anche se la dobbiamo toccare. Resta comunque il mio scetticismo. Vabbè, abbiamo 3 milioni e mezzo di disoccupati e il reddito di cittadinanza in Italia costerebbe almeno 30 miliardi l'anno, no? 30 miliardi. Sono una cifra molto grande, sono tanti soldi. Noi non crediamo che si possano prendere. Certo, se li prendi tagliando i servizi sociali, ho capito, la coperta corta. Comunque, secondo noi, per il reddito di cittadinanza, parliamo dell'Italia, e ringrazio Fernando per la specifica che ci ha dato sul sistema impositivo spagnolo, per noi in Italia non esiste la possibilità di trovare questo tipo di copertura senza disporre di una banca propria, di una moneta propria. Ma c'è un altro punto che è particolarmente debole: se si ha la pretesa di conservare la moneta unica euro, stiamo confrontando col programma di Podemos, e questo dobbiamo pensarci, è la conversione della BCE, della Banca Centrale Europea, in una istituzione democratica che cambierebbe il suo ruolo da severo guardiano dell'inflazione bassa a banca finanziatrice per la creazione di posti di lavoro in tutta l'Unione Europea. Voglio dire, basta leggere lo statuto della BCE, basta vedere quali sono le regole su cui è stata creata. Io considero questo aspetto un po' debole nel programma di Podemos. Cioè, sarebbe giusto avere... Ci aspirava già una vita. Quando è stato il primo negli anni, alla fine degli anni 90, era capito comunista in quel caso, perché la vita era ancora sotto quelle soglie, effettivamente ha un tipo di politica fiscale a livello dell'Unione Europea analoga a quella che esiste come gestione anche della banca centrale negli Stati Uniti. Questo è un altro punto di discussione, dove evidentemente anche Podemos va nell'ipotetico, ma lo fa come sfida, nel senso di dichiarare che se l'Unione Europea è conseguente proprio col primo sviluppo e non con gli accordi di Maastricht, effettivamente ci sarebbe stata un altro tipo di è una posizione molto vicina a quella di altre Europa, la conosciamo a memoria, ci sta tormentando, per fortuna con l'aiuto degli psicanalisti ne siamo usciti fuori, per loro era il ragionamento no. Non è ingenuo da questo punto di vista, però è un po' una sorta di schiaffo dialettico. Vado avanti perché poi c'è la risposta a questa tua osservazione, che però mi hai dato già un'altra, e ti ringrazio. Allora io dico, rispetto a questo discorso della BCE che diventa la guardiano neoliberista del monetarismo eccetera, non ci crediamo, sarebbe stato più corretto se noi, per noi, corretto leale, scrivere che si intende riformare l'Unione Europea e che il programma è compatibile non con... aspetta però, la parte brutta la faccio. Che il programma è compatibile non con questa Europa, ma con un'altra che ancora non c'è e che secondo noi probabilmente non ci sarà mai. Però lo spieghiamo perché ci piace spiegare le cose che diciamo, che abbiano ragione o no di essere dette. Infatti, quello di Podemos, secondo noi, è un programma che appare più come una dicitura, un racconto, no? Interessante sul piano sociale e politico, e forse neanche come un sogno, perché i sogni a volte si realizzano, si avverano. Poi vediamo perché sto dicendo questa cosa apparentemente cattiva. È un racconto di belle e giuste intenzioni, tant'è che diciamo siamo qua per questo, vogliamo la stessa cosa. Forse dovremmo capire come essere d'accordo per realizzare la stessa cosa, che io non credo che la BCE si possa riformare. Comunque, non vediamo obiettivi realistici. È facile dire vogliamo cambiare la BCE, Stati Uniti d'Europa, eccetera. Poi ve lo diciamo perché. Sono per noi le intenzioni di un racconto che non ha nessuna attinenza con la situazione reale in cui versa questa Europa, e che la situazione, secondo noi, può cambiare solo se si recede dai trattati e si esce dalla moneta unica, dal sistema del debito pubblico nelle mani delle banche private e della BCE. La BCE è una banca che emette, stampa una moneta che resta privata e straniera per tutti. Questo bisogna dire, se l'euro è questo qui, cioè proprio sono possessioni private. Allora qui il problema si sposta dal programma, no? Su cui è più facile trovare le convergenze, a un altro ordine razionale di valutazione, che è il primo dei tre cardini, la visione politica del sistema. Cosa abbiamo capito? Cosa concludiamo su questo sistema noi? Ora, un soggetto politico credibile che intenda realizzare i suoi obiettivi deve essere coerente con la visione politica del quadro di potere vigente e non può sperare di unirsi con altri soggetti che hanno una visione divergente, perché i programmi, se non sono giustificati e praticabili, soprattutto in un sistema dato, diventano pura propaganda elettorale. Questo sosteniamo. E quindi facciamo una rapida considerazione sulla convergenza di fondo che devono avere diversi soggetti politici o semplici individui per riconoscersi in un programma credibile. Il quadro di potere oggi, quello che chiamiamo quadro di potere, è quello dell'Europa e della moneta unica, della Banca Centrale Europea, e ci sono tre posizioni fondamentali, perché alla fine poi diremo da uno, da due, da tre, tipo vecchi giochi, acquisti, televisioni, cerchiamo di capire ognuno in che posizione sta rispetto al potere. Ci sono tre posizioni sull'euro, no? A sinistra, diciamo, se consideriamo Podemos, anche se non si dichiara di sinistra, di lavorare nell'ambiente progressista, no? Quindi non c'è bisogno che ce lo dicano loro, stanno lavorando contro il neoliberismo e lo riconosciamo. La prima posizione è quella che l'euro non è un problema perché non è la moneta a determinare l'economia. Bella, questa mi piace. Il denaro viene visto solo come strumento di scambio, ma in realtà, direbbe Max Weber, che il denaro non è un semplice voucher per beni d'uso non specificati. Esso, al contrario, è uno strumento politico perché è inserito in un sistema monetario fatto di norme, e il suo uso, che è politico, produce necessariamente vantaggi per certe classi sociali, prestatori di denaro, e svantaggi per altre, fino a diventare, nel suo essere strumento privato di ogni presupposto democratico, la premessa di squilibri che possono portare il sistema ad implodere. Ci siamo molto vicini, che il sistema è vicino a questa implosione. Il teorema che recita l'euro non è il problema pretende di governare l'economia e di reperire risorse finanziarie razionalizzando l'amministrazione della cosa pubblica attraverso due strumenti. L'euro non è un problema. Lotta all'evasione e alla corruzione. Fantastico. Siamo d'accordo che bisogna proprio combattere l'evasione e la corruzione, no? Chi ha mai detto no di battere l'evasione? Qualcuno l'ha detto, cioè, guarda, o pago le tasse o faccio reddito e vado. Ma qualche anarchico, qualche comunista, brutta gente. Lotta all'evasione e alla corruzione. Bene, questo dovrebbe bastare a trovare le risorse per finanziare un po' di spesa pubblica in più, un po', senza esagerare, mi raccomando. E innescare dei meccanismi virtuosi che dovrebbero portare l'economia a essere un po' più produttiva, a rispettare i parametri di competitività grazie a una migliore efficienza generale, e infine ad aumentare l'offerta di lavoro, diminuire la disoccupazione e aumentare i salari. Questa è la posizione in Italia del Partito Democratico, del centrodestra, di Monti, di Renzi e fondamentalmente della Troica, no? Questa è la posizione. Corruzione, evasione, siate più competitivi. Ma siamo stancati di essere competitivi, no? Non lo vogliamo mai. Beh, noi vediamo, l'euro non è un problema? È strano però, le statistiche ci dicono un'altra cosa nella lettura. Più disoccupazione, meno diritti per i lavoratori, deflazione obbligatoria dei salari, che si chiama elegantemente competitività, e che è l'unica strada per compensare gli squilibri che il cambio rigido della moneta unica euro, che dico tutti a capire cos'è, non può fare. Stagnazione economica o recessione, tagli alla spesa sociale fatti con l'accetta, disoccupazione strutturale come sacrificio umano permanente, smantellamento del welfare e della democrazia. E anche l'asservimento, ritorniamo su un altro punto, alla politica estera della NATO e alle sue strategie predatorie che ci porteranno presto sull'orlo di una nuova guerra, no? E nell'angoscia del terrorismo del proprio treno. Questo dobbiamo dirlo, perché non esiste un problema, esiste un sistema di problemi, non si possono. Bene, poi c'è la seconda, quindi una è la posizione dell'euro, non è un problema, è una banconota che stampi, è uno strumento, eccetera. Non, sono forse 100 anni che la teoria economica rifiuta questo concetto che si rifà a Ricardo Smith, cioè una cosa proprio antica, non è possibile. La moneta noi sappiamo che è politica. Vabbè, la posizione 2 è quella che più ci dispiace, è pericolosa, che è poi la posizione di altra Europa per Silva, se diciamo. E un po' vorremmo capire Podemos anche com'è rispetto a questo, secondo noi forse si avvicina a questa posizione. La seconda posizione è quella della democrazia probabile. È probabile che c'è la democrazia in Europa. Come? L'altra Europa, l'Europa federale dei popoli. Bene, questa posizione è ancora più irrazionale secondo noi, perché si pone in una dimensione temporale indefinita e al di fuori del quadro normativo che è alla base della Unione Europea. Cos'è il quadro normativo? È quello del diritto internazionale, è solo in via subordinata del diritto statuale, delle leggi che possono fare i parlamentari eletti, il quale diritto statuale deve prontamente adeguarsi anche con modifiche istituzionali, come è accaduto anche all'Italia, che ha obbedito inserendo il pareggio di bilancio, come richiesto, ha obbedito in Costituzione modificando l'articolo 81. Bravi! Qui c'è tutta la visione, secondo noi, completamente priva di fondamento degli Stati Uniti d'Europa. La riforma dell'Europa dal suo interno, secondo noi, è una sciocchezza, non possiamo dirla altrimenti. Adesso spieghiamo perché. L'idea che possa esistere un'Europa con l'euro e senza austerità è sbagliata. Lo sostiene anche l'economista Alberto Bagnai, viene molto insultato da una certa sinistra di sistema, ma che noi lo ammiriamo e l'ha ammirato anche a livello internazionale. Quindi non è possibile avere l'euro senza l'austerità. Mettiamoci in questo. Ma è ancora più sbagliato credere che ci sia un modo per cambiare l'Europa e le sue regole. Qui, per spiegare perché è sbagliato questo progetto, facciamo un esempio: se noi siamo d'accordo e andiamo al governo, no? Ci uniamo, troviamo una convergenza sul metodo, diamo un partito che arriva a governare l'Italia. Vediamo cosa non succede. Qui basta semplicemente dire che qualunque governo eletto di qualsiasi stato dell'Europa, con una maggioranza ampia e libero apparentemente di attuare il suo progetto senza scendere a compromessi con altre forze politiche, non ha nessuna possibilità di incidere all'interno dell'autorità dell'Unione Europea per promuovere una riforma che trasformi l'Europa neoliberista della Troica nell'Europa dei popoli. Non è possibile, secondo me. Adesso spieghiamo bene. La ragione elementare è risiede proprio nella mancanza di strumenti democratici alla base di questa Unione Europea, che è la più grande truffa storica ai danni dei popoli e delle classi lavoratrici, la più grande menzogna fondata sulla promessa falsa che un'unione monetaria tra stati profondamente diversi sia possibile. Stati con realtà economiche, sociali e culturali differenti, con differenti sistemi giuridici e statuali e con differenti aree valutarie, cioè di valuta ben lontane dall'essere ottimali, come richiede l'economia classica, condizione fondamentale per una qualsiasi unione monetaria. Gli economisti lo sanno, infatti non ci sono economisti che dicono l'euro è giusto, dicono l'euro crea degli squilibri, sì, più competitivo, no, perché se lo dici, per quanto sei di destra e neoliberista, ti cacciano dall'università. Quindi sì, crea degli squilibri, ma è colpa tua, devi lavorare per 45 ore per 300 euro al mese e vedi che diventerai bravo. Nel frattempo sei morto e passa la paura. e risparmia anche sulle pensioni, perché questo è... La promessa a monte però era opposta. La promessa a monte era opposta, però che facciamo? Ci mettiamo a piangere rispetto a questa promessa? Hanno detto una cazzata, ne prendiamo atto? Dobbiamo prenderne atto, non è che possiamo stare... Mia madre una volta mi aveva detto che se facevo il bravo lo portavo da giosta, e io arrivo a 80 anni a dire... Cioè, prendiamo atto che è stato usato, no? Questo strumento utile, giusto, di un'Europa che finalmente bloccava la conflittualità tra gli stati per socializzare e distribuire e diffondere il benessere tra i popoli. Non è andata così. Dobbiamo guardare ancora a Spinelli, dobbiamo guardare a queste cose, basta, no? Guardiamo a quelli che domani mattina non sanno che cacchio devono fare per tirare avanti, se siete d'accordo, di sogni reali. Era giusto il progetto, ma questi bastardi lo hanno utilizzato per riempirci la testa di cazzate, e cosa dobbiamo fare? Ce le teniamo queste cazzate? Era bello, quando sarà possibile? Tra 300 anni lo faremo, adesso non è possibile. Vediamo qual è la ragione però elementare. Io qua sto dicendo una cosa più importante sul piano giuridico, cioè se diventiamo noi forza di governo, siamo d'accordo, arriviamo lì, cosa succede? Come funziona in Europa, no? Questa bufala degli Stati Uniti. Un governo che ha un programma ambizioso e vuole realizzare un determinato programma partendo da una riforma delle regole europee, una volta eletto si presenta alle autorità dell'Unione Europea, non solo dove stanno, a Bruxelles, non si capisce dove stanno, diciamo che si presenta ai capi di governo, in realtà lo sappiamo a chi si presenta, e chiede, questa è bella, chiede di cambiare l'Europa per realizzare il suo programma. L'ha fatto già Varoufakis, ma lasciamo perdere. Programma che deve essere valido anche per gli altri stati. Quanti sono gli stati nell'Eurozona? Sono 19. 28? No, 28 in tutta l'Unione Europea. Per l'Eurozona intendo quelli che dividono, che condividono la moneta unica. No, sono 19. Gli altri che sono fuori stanno cominciando a pensare se entrarci o no. No, sono 19 quelli, parliamo della moneta unica qui. Lascia stare di 28, poi effettivamente vorrebbero che alla fine fossimo 28 stati. Bene, detta così questa storia che realizziamo il programma dell'Europa socialista, sembra una barzelletta, no? Cioè, madonna, che cazzata. In realtà nasconde una sprovvedutezza, o peggio, secondo noi, una ipocrisia che assume il tono della farsa, che precede la tragedia di chi ha coltivato questa aspettativa, come gli elettori di Siriza in Grecia, ma poi apprende improvvisamente tutto l'aspetto illusorio della faccenda. Bravo, hai vinto, ciao, complimenti. Adesso fai quello che ti dico. Questo ipotetico governo eletto sulla base di questi presupposti sbagliati, no? Fa la proposta agli altri capi di governo e gli dice, sono altri 18, 19, agli altri 18 dice, sentite cari, noi chiediamo di cambiare, mi viene da ridere perché non è serio, comunque lo devo dire, chiediamo di cambiare i trattati e di riscriverli per creare un'Europa federale dove gli stati più ricchi, questo è bello, socializzano le perdite con quelli più poveri e distribuiscono i propri diritti. Mazzo, cioè San Francesco lo avrebbe potuto fare di meglio. Questo potrebbe accadere solo, questo discorso qui, se entriamo sul piano giuridico, se 19 governi sono d'accordo, dice bene, sono concordi tra loro e con le maggioranze dei rispettivi paesi, visto che i trattati non sono frutto di scelte democratiche e consapevoli dei popoli, ma sono documenti sottoscritti dai governi. Questo dobbiamo capire, non è che si va al Parlamento europeo, c'è una maggioranza e dice che andiamo all'Europa. Questo non c'è. Basta leggerlo anche sui siti dell'Unione Europea, non funziona così. Il Parlamento europeo ratifica delle cose già stabilite dalla Commissione europea. È una cosa immonda, secondo me. Noi crediamo che questo delirio dell'Europa federale vuol dire che la tragedia della Grecia non ha insegnato niente. Secondo noi l'unica riforma possibile per l'Europa è il recesso dai trattati. È la reintroduzione delle monete statali, che sono il presupposto per lo sviluppo di politiche economiche interne e per l'apertura a relazioni internazionali fondate sulla cooperazione tra altri con altri popoli liberi. Quasi finito, papello, vedete soffrire. Bene, gli Stati Uniti d'Europa sono un diversivo per distogliere l'attenzione da politiche praticabili. Ora, potremmo fermarci qui sugli Stati Uniti d'Europa, no? Ma diamo un breve cenno di cosa in teoria vorrebbe significare e perché l'Europa federale è realizzabile. Noi lo diciamo perché non si può realizzare. Ci sono tre limiti. Uno è un limite propriamente giuridico istituzionale. L'Unione Europea non è democratica perché le decisioni non possono essere prese nel Parlamento Europeo, come dicevo prima, ma solo dai governi che la compongono. Governi eletti ognuno secondo le maggioranze politiche che li legittimano. Quindi 19 governi dovrebbero decidere di cambiare i trattati Questo è per realizzare la BCE che si cambia, cambiare i trattati e riscriverli secondo criteri di socialismo tra stati federati. Allora, devono essere d'accordo il 19 tra loro e con i propri, col proprio elettorato, le proprie maggioranze. Ora, chi può credere a questa cosa, no? Non avverrà mai. Facile immaginare che un'intesa unanime di questo tipo non ha nessuna probabilità di avverarsi per le differenti posizioni politiche dei diversi stati. Poi c'è il limite fiscale, no? L'Europa federale si fa, è bello, spieghiamo cos'è l'Europa federale. Qual è il limite fiscale? Un governo federale dovrebbe avere un sistema di prelievo fiscale e di tasse comune per tutti gli stati. Uguali prelievi fiscali per ogni stato significa che gli stati con un prelievo fiscale alto, come l'Italia, si avvantaggerebbero obiettivamente, mentre altri con un prelievo fiscale più basso si ritroverebbero a pagare più tasse, a meno che non si portino i prelievi fiscali tutti alla soglia di quelli dello stato più basso, riducendo il gettito ad una quantità oggettivamente insufficiente. Metti d'accordo 19 stati su questa cosa? Sì. Il limite politico ed economico qual è? Questo è spiegato in studi fatti da Jacques Chapier, un studioso che ha giustificato la sua teoria, in cui si dimostra che un tesoro, il Ministero del Tesoro centralizzato, che dovrà provvedere a fabbisogni dei vari stati, porterebbe le economie più ricche, leggi Germania e paesi del nord, a finanziare gli scompensi della moneta unica a vantaggio delle economie più povere. Difficile credere che il popolo tedesco sia disposto a pagare più tasse per ricevere minori trasferimenti di denaro affinché vengano costruite più strade in Portogallo, più scuole in Italia o più ospedali in Grecia, giusto per fare degli esempi, no? Io non credo che avverrà. Quindi, secondo noi, gli Stati Uniti d'Europa sono un diversivo, in Italia stiamo parlando, quindi ci siamo staccati da un pezzo da Podemos, noi preferiamo invece vedere la parte positiva della loro proposta. Ma gli Stati Uniti d'Europa per noi sono un diversivo inventato in casa PD, in casa Partito Democratico, è accolto superficialmente da una parte della sinistra che non ha valutato o ha finto per opportunismo di non comprendere l'impossibilità di tale prospettiva, che non si possono fare. Una prospettiva internazionalista, noi abbiamo una prospettiva come movimento internazionalista, propone un'uscita dai trattati della moneta privata e straniera per ricostruire, come riportato nel manifesto che abbiamo pubblicato, rapporti e unioni tra popoli liberi sulla base di cooperazione, simmetria e reciproci vantaggi. In Europa non c'è simmetria, c'è qualcuno che lucra sugli scompensi dell'altro. Noi siamo invece veramente internazionalisti, non proponiamo di sottoporre dei trattati in cui qualcuno ci perde e noi ci arricchiamo. Questo è il nazionalismo che noi respingiamo, che non è il concetto dell'autodeterminazione dei popoli, che è un'altra cosa. Il nazionalismo è di destra, Italia forte, e approfitta di chi deve comprare i suoi beni fino a indebitarlo e uccidere. No, non siamo contrari. Quindi noi abbiamo l'urgenza di rispondere alla domanda di milioni di persone che non hanno lavoro o lo hanno sottopagato, e abbiamo bisogno di invertire la rotta delle privatizzazioni e il saccheggio dei beni comuni. La terza posizione è quella dell'uscita dall'euro, no? Che molti di destra, di sinistra, cerchiamo di vedere di che si tratta. La posizione no euro o no sistema del debito, perché del debito fatto contratto con creditori privati, no? Non ci piace proprio. Si torna qui ad un'analisi razionale, può essere avversata, criticata, però sulla base di numeri, di cose razionali. E spiega la crisi economica conseguente a quella finanziaria come uno svuotamento della democrazia, l'impossibilità di governare. Questo è il progetto che ha avuto il neoliberismo. Di bloccare, perché con la democrazia potevamo arrivare addirittura al comunismo 30 anni fa, no? Democratico ovviamente, socializzazione eccetera. Questo pericolo non c'è più per il capitalismo adesso, noi vorremmo invece rimetterlo in ansia su questo pericolo. Questa analisi parte proprio dalla moneta unica, cercando di comprendere il meccanismo che sta alla sua base. Si deve prendere atto oggi che la gestione dell'euro comporta una scelta univoca: la privatizzazione di tutti i beni e i servizi pubblici, la loro sottoposizione alle regole ragionieristiche del profitto. Il nuovo capitalismo, che si esprime nell'ideologia neoliberista, ha un programma di distruzione di tutte le strutture della collettività capaci di porre un ostacolo alla mera logica assoluta del mercato. Dopo tutto quello che abbiamo visto accadere in Grecia dal 15 luglio, dopo aver constatato senza possibilità di dubbio che l'unica volontà dell'Eurogruppo sia stata quella di eliminare il governo di sinistra di Siriza e di impedirgli con successo la realizzazione del proprio programma politico espresso a Salonicco, dobbiamo noi adesso a questo punto realizzare una piattaforma politica che ponga il tema della moneta unica europea, gestita oggi per privatizzare gli stati nazionali, come elemento discriminante rispetto ai programmi di tutti gli altri partiti. Poniamoci questo problema. Se per avere una politica che torni ad avere la giustizia sociale come faro si dovrà abbandonare l'euro, sarà necessario farlo. Non si deve prendere in giro l'elettore prospettando di tale eventualità come semplice indolore, ma come l'unica, anche se complessa, possibilità di operare quelle politiche pubbliche in grado di assicurare la garanzia di una vita dignitosa alla maggioranza dei cittadini e di isolare le oligarchie finanziarie europee. Questo non significa essere contro una cooperazione pacifica tra gli stati europei e non riconoscere la bellezza di un'utopia che veda i popoli europei solidali e fraternamente uniti tra loro. Significa invece constatare che il mezzo della moneta unica ha soltanto inasprito la concorrenza tra i mercati dei diversi stati, permettendo ad alcune nazioni di egemonizzare la sovranità in Europa e le proprie strategie globali a danno di altre. Un caso che la Germania è il creditore e la Grecia è il debitore. Bene, questo dopo la Seconda Guerra Mondiale non sarebbe mai dovuto più accadere. Mi ricollego anche al discorso delle origini, come era stata proposta l'Europa, no? Ricordo questa cosa. Non doveva più accadere. E dobbiamo fare in modo di far fallire questo disegno egemonico di colonizzazione degli stati del sud Europa. Questo sta arrivando. Essere contro l'euro significa guardare in faccia la realtà delle cose, ammettere che uno strumento economico che a detta dei suoi sostenitori doveva costituire il primo passo per una maggiore integrazione politica europea si è rivelato una trappola egemonica del capitalismo neoliberista. Le inevitabili differenze dei tassi di crescita delle economie europee, l'inflazione nascosta dall'abbassamento progressivo dei salari, è stata fatta pagare ai lavoratori, ai pensionati, al mondo produttivo delle piccole e medie imprese e del lavoro autonomo, generando una spinta deflattiva che non vede via d'uscita e ci porta a questa stagnazione nei secoli dei secoli. Se non è stata data la possibilità di operare un cambiamento relativamente rigoroso e fallimentare rispetto delle politiche di austerità alla Grecia, essa non verrà offerta a nessun altro paese europeo, cerchiamo di capirlo, è ora di comprendere. Quindi va posto come elemento prioritario per una formazione politica, mi collego al tema dell'incontro, va posto come elemento prioritario per una formazione politica di sinistra o antiliberista il ricercare mezzi, procedure, risorse e soluzioni per gestire il ritorno ad una moneta che possa essere governata direttamente dallo Stato e non in funzione degli interessi delle banche private. Finisco, ogni soggetto politico o movimento deve dichiarare, questa è la proposta che facciamo noi, cioè dichiariamoci, diciamo come la pensiamo, deve dichiarare la sua posizione rispetto al quadro di potere e dire apertamente se, uno, l'euro non è un problema, due, se l'euro è un problema ma si risolve con più Europa e quindi un'unione federale che porta agli Stati Uniti d'Europa, oppure che la moneta unica è lo strumento privilegiato per le politiche neoliberiste in Europa e che l'unica strada è quella del recesso dei trattati e del ripristino di monete statali e di banche centrali non indipendenti ma al servizio dello Stato e della collettività. Le tre posizioni sono in contraddizione da loro. L'euro non è un problema, sì lo è, ma gli Stati Uniti d'Europa l'euro è il problema, sono compatibili. Ognuno dichiari con coraggio la propria scelta e la giustifichi. Solo dopo questa prima e fondamentale convergenza ha senso procedere verso la discussione del metodo di democrazia interna e delle regole di un'eventuale organizzazione politica unitaria, metodo che noi pratichiamo già abbastanza agevolmente all'interno del nostro movimento, il Movimento Essere Sinistra, e che dimostra quanto sia effettivamente possibile individuare e sostenere una linea politica che sia condivisa e partecipata. E vi ringrazio per aver ascoltato tutto il papello. Ho finito, forse ho sforato un po', cara. Hai sforato un po', ma sei stato estremamente articolato. Ma adesso. Cioè, rispetto a tutto questo ci puoi dare il tempo di... No, perché da alla fine la proposta. Elaboriamo e... No, per carità, che da dire? Spunti di discussione. Io sono. Però c'è Fernando che già deve dire una cosa veloce che se ne va. Poi il treno alle 5, devo dire soltanto una cosa: molti derivati ti sono considerati anche con la posizione della doppia moneta, tutte queste cose all'interno di Sodello. E non è che ci sia un atteggiamento, evidentemente credo che Rosso Spena anche ha indicato molte delle ragioni. E fra, io sono della linea più dura di tutti voi, sono altoseriano, l'ho già detto, quindi non devo giustificarmi davanti a nessuno, sono un membro atipico di Podemos, se mi metto a fare purezza ideologica, nella mia scuola ne abbiamo da vantare. E do la ragione però, ahimè, in questo senso, Pablo Iglesias, quando guarda, come Rosso Spena anche ha detto, i possibili sondaggi rispetto a determinate opinioni, a me va bene la prudenza ideologica finché non rimaniamo all'1%, perché se rimaniamo all'1% non siamo influenti, e quindi il nostro bel discorso ideologicamente puro, ideologicamente impeccabile, avrà ragione, come ha detto Iglesias molte volte, ma poi nella nostra lapide potranno scrivere aveva ragione, l'ha detto diverse volte, e penso effettivamente ci sia un principio, effettivamente da questo punto di vista, di operatività. Se vogliamo in qualche maniera essere influenti, dobbiamo imparare dai nemici. Secondo me questa è una riflessione che avrebbe anche fatto. Ma poi dobbiamo anche decidere se vogliamo fare politica e se portarla alla gente, dobbiamo solo pensare ad andare a votare. Perché non prima di tre anni. No, ma scusa, ma prima di tre anni noi difficilmente torneremo alle urne, quindi voglio dire. Ma se vogliamo mettere uscita dalle euro, già neanche chiedersi come si è chiesto nei dibattiti la doppia moneta, che è una cosa che io prima della questione di Varoufakis e di Tsipras, all'interno dei dibattiti della tuerca sono stati fatti e sono stati presi seriamente da tutti, anche da posso mettere una cosa, io devo prendere, che però proprio perché purtroppo io non considero assolutamente validi i sondaggi, per me i sondaggi sono qualcosa che modificano la realtà, non la creano la realtà, non la rispettano, non la rappresenta, quindi il sondaggio che voi sentite vi modifica. Allora bisogna rispettare un sondaggio, però. Proprio perché non c'è una chiara posizione sull'euro, e in questo momento, dicono i sondaggi, visto che parlate di sondaggi, Ciudadanos, cioè la posizione di destra, è addirittura superiore a Podemos. Se parliamo di sondaggio. Sembrerebbe. Io, se non altro che sia la macchina poi è fatta. Però se parliamo di sondaggi, questa è la posizione. No, vedete, interstisce invece. Non sono fatti i sondaggi. No, io non credo neanche a quelli sull'euro di sondaggio, però. O crediamo a tutti o non crediamo a nessuno. C'è la questione di sondaggio. La mia tendenza però è che i voti reali e i posti acquisiti sono influenti finora. Prima l'alternativa è essere quando si esce, se non facciamo la cosa, si esce tra mezz'ora e tre giorni. Ma infatti bisogna cominciare a fare qualcosa. Io volevo fare le provocazioni rosse. Perché quello che fanno è che predicano, è quello che ci mettono sul collo. Io non lo voglio imparare. Però è un peccato. Ma noi non siamo qui a novembre. No, in realtà, stiamo sempre in Italia. Allora, in Italia, che è più indebitato e anche più arretrato. momento del genere è stato lì però discorso di forse, forse, forse, dico forse. Ma soprattutto non però, sì, ma il discorso più articolato che va al di là di questi personaggi italiani, cioè il sociale è una cosa più evidente la geopolitica del dialogo. Allora così la geopolitica va benissimo, cioè dalla crisi della sinistra, sì, però se dicono allora se c'è una cosa di quando si allora, se siamo in questo sistema, secondo me non ci dobbiamo per uscire dal problema. Mettiamo a ridiscutere a un bar, una cosa così, cerchiamo di fare più una discussione e meno una cosa e capire poi cosa, come procedere, che poi insomma come procedere è un gran lavoro, però ce l'abbiamo diciamo abbastanza chiaro. Perché certo purtroppo la giornata con questo tipo di ritardo è stata delirante. Questo è stato il problema. Che chi è questo bel proiettore? No, questo è il noleggio. Ah, dove lo noleggi? Via Valmaira. Ah, però non leggiano i proiettori, perché c'è, che c'è là? C'è un ufficio, una cosa che fa che noleggia le apparecchiature. Sì, che sia pure il... No, quello è di qua. Però volendo sì. Certo, basta il... Sì, sì. Volendo sì. Perché... dato che qua non c'era e poi allora quindi mi sono andata, però chiaro che partire con un'ora di ritardo mi ha sballato tutto, chiaro. Ma allora vabbè, io vado a casa. Senti tesoro, se lì pioverà sarà un gran casino per raccogliere l'arancia. Non lo so, perché quanto so la teoria in contro la pratica, mo ha piovuto qua, però in teoria domani deve essere meglio di oggi. Che sono tutte bagnate, eh. Raccoglierle bagnate non si può, se marciscono da qui. Ah, perché aspettare sta asciugno? Abbiamo il fuoco. No, ma mica, voglio dire, mica le lascio, no. Se tu senti a non piovere, a raccogliere domani, nel frattempo se vanno a studiare. Se domani piove, se fa, comunque se raccoglie quello che si prova a vedere quello che fa. Io non riesco a trovare più niente. Sto smontando, però non mi muovo le cose. Se non è un po' un livello, farti fare via, però Questo è mio. Oppure sì. No, senza complotti. Io devo fare il ragazzo di camera adesso. Abbiamo trovato un'alternativa, adesso usciamo, ci troviamo un bar e andiamo a prendere un caffè. Ma c'è tanto la parte, diciamo, più divulgativa. Sì, sì, possiamo rimanere. Possiamo rimanere in pochi, sì, sì. Adesso, anche se si rimane in meno, tanto c'è il discorso della rete che comunque ci aiuta enormemente. Certo. Comunque e noi comunque tutto, io metto via tutto. Pensa che non ho neanche staccato questo.